Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Come riformare il sistema fiscale per renderlo più equo ed efficiente e avviare quella indispensabile riduzione del prelievo a vantaggio di quanti pagano regolarmente le tasse? Si tratta di quel gran numero di contribuenti che, come sappiamo, per effetto dell'alta evasione sono costretti a subire un'elevata pressione fiscale sui propri redditi. È un interrogativo che attraversa le diverse stagioni politiche, con risposte a volte incerte e contraddittorie, e che merita di essere approfondito. Oggi lo facciamo tornando indietro nel tempo, per rievocare la figura e l'azione riformatrice di Ezio Vanoni, ministro delle Finanze dal 1948 al 1954 e poi del Bilancio fino al 1956, anno della sua scomparsa. Per ripercorrerne la figura a 60 anni dalla scomparsa, l'ANTI, l'Associazione Nazionale dei Professori di Diritto Tributario e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano hanno organizzato un convegno svoltosi lo scorso 16 giugno al Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria. Ne parliamo questa sera con il professor Gianni Marongiu, emerito di diritto tributario all'Università di Genova e presidente dell'ANTI, nonché ex parlamentare ed ex sottosegretario alle finanze del primo governo Prodi dal 1996 al 1998. Buonasera professore, benvenuto. Il dopoguerra è ormai un pallido ricordo quando nel 1960 appare nelle sale cinematografiche un film, La dolce vita, di Federico Fellini, che sembra intonato ai vaporosi sogni di benessere e di evasione dell'italiano medio. In effetti, in quegli anni, nella penisola, sta avvenendo una trasformazione per certi aspetti rivoluzionaria sul piano strutturale, ma assai più circoscritta e in sordina sul piano culturale e sociale. Una società ambivalente, in bilico fra il vecchio e il nuovo, una società in parte ancora frugale, in parte già suggestionata dai miti del consumismo, in parte provinciale e contadina, attardata su viete convinzioni, in parte ricca di fermenti e tensioni progettuali, alla rincorsa di tutto ciò che sappia di moderno, anche nei suoi aspetti più superficiali. Ebbene, di quei lontani anni si è sfumato invece il ricordo dell'ammodernamento del sistema fiscale, un'opera che Ezio Vanoni contribuì a realizzare con l'aiuto di Alcide De Gasperi e di Luigi Einaudi. Fu Vanoni a introdurre l'imposta sulle società nel 1954 e a porre fine a un'elusione di imposta che durava dal 1925. E per ragioni di equità ridusse le aliquote di tutti i principali tributi e per dare certezza ai contribuenti ispirò il testo unico delle imposte dirette del 1958. Allora, professor Marongiu, un'azione riformatrice molto importante questa di Ezio Vanoni. Importantissima, non soltanto per i contenuti, quindi una grande opera di semplificazione riducendo a una le numerosissime dichiarazioni di imposta che attraversavano l'ordinamento tributario, non soltanto perché, come ho sentito poco fa, chiuse una manovra elusiva che durava da 30 anni, non soltanto perché diede certezza all'ordinamento tributario, tutte esigenze che sopravvivono ancora a Ezio Vanoni, sono attualissime, ma soprattutto perché in anni difficilissimi queste riforme le attuò con legge ordinaria, e cioè in esito a un ampio dibattito parlamentare. Ecco, ma com'era strutturato il nostro sistema fiscale prima della riforma Vanoni, professore? Allora, Ezio Vanoni, trasferì, voglio dire, nel mondo della politica e nel mondo operativo, diventando ministro, i suoi approfonditi studi degli anni 30, volle che l'ordinamento tributario fosse riformato e rammodernato soprattutto iniziando dagli adempimenti, quindi rinviò, ma poi non ebbe tempo di realizzarlo, la riforma della struttura dell'ordinamento, che rimase sostanzialmente quale era, salvo l'importantissima imposta sulle società, introducendo la dichiarazione unica annuale obbligatoria, perché voleva un mutamento, che in parte è avvenuto, nei rapporti tra fisco e contribuente. Lei dice in parte è avvenuto. Forse perché manca ancora quella fondamentale componente della semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente. In parte perché il riformismo centrista si arrestò quando nel 1954 morì Alcide De Gasperi, nell'agosto, quando Luigi Einaudi cessò dall'essere Presidente della Repubblica nel 1955, il suo successore era di ben più, di un diverso livello, ecco. Sì. E quando nel 1956 ebbe a mancare anche Ezio Vanoni. Però perché i governi successivi, adesso non la voglio far lunga, ma insomma sono anni che sono attraversati, sa, dai tentativi di portare al governo i socialisti, chi li vuole, chi non li vuole, questi tentativi iniziano nel 55 e finiranno poi col governo Fanfani nel 62, ma quindi 7 anni di lunghi dibattiti dentro e fuori il Parlamento e la società politica. E non ebbe un seguito, gli anni 60 sono un buco nella riforma dell'ordinamento tributario, nonostante gli sforzi dell'illustrissimo professor Cesare Cosciani, bisognerà attendere il 71 per avere la legge delega sulla riforma tributaria che ha introdotto quei tributi che ancora vigono. Allora, nel gennaio del 55, Vanoni, discorsi sul programma di sviluppo economico, a un certo punto dice: non esistono miracoli in economia, non esistono macchine capaci di creare automaticamente il benessere, ma esistono modi di ragionare e impegni. Quindi questo vuol dire che è possibile allora arrivare a un fisco più... Certo che è possibile, bisognerebbe andare sorto al di là della società della immagine. Tenga presente che quella frase Vanoni la disse a un consesso di professori universitari, perché proprio in quell'anno uscì un autorevolissimo articolo su un ancora più autorevole quotidiano inglese, il Time, che disse: ma l'Europa si è accorta del miracolo italiano? Un paese che 10 anni fa era distrutto, umiliato, mortificato, era stato attraversato da una guerra civile, era stato terra di combattimento tra eserciti fortissimi e contrapposti, bombardato. E dice 10 anni ed è dal 50 che cresce al 5-6% all'anno, e infatti raddoppierà il PIL alla fine degli anni 60. Ma è un miracolo, forse perché non pensavano che gli italiani potessero con la laboriosità far tanto. E allora Vanoni precisò e disse: ma quale miracolo? Qui dietro c'è lo sforzo di 2 generazioni, devo dire, dirà Vanoni, ben guidata, perché per capire quegli anni occorre non soltanto partire dalle tragiche condizioni, ma anche partire da ciò che seppero fare. Far votare le donne che non avevano mai votato su un'alternativa monarchia o repubblica, ma significava avere un senso di responsabilità incredibile. Anche gli uomini erano 20 anni che non votavano. Certo. Eleggere un'assemblea costituente, sottoscrivere un trattato di pace, questa è l'opera concorde, questo lo dico concorde perché fu così voluta, il 18 aprile viene dopo, nel 48, ma i primi 3 anni sono 3 anni nei quali le diverse forze politiche lavorano unanimemente per dare un contesto giuridico-politico di certezza agli italiani. Ecco, lei poco fa, professor Marongio, citava il fatto che tra la riforma Vanoni e la grande riforma, chiamiamola così, dell'inizio degli anni 70, intercorre un decennio in cui sostanzialmente non si fa nulla. Ma forse è stata un'occasione mancata, perché già nel 70 eravamo in un'altra situazione. Io la considero una riforma mancata perché si trascurò il fatto che il miracolo continuava, chiamiamolo così, la ricchezza degli italiani cresceva, ed allora si sarebbe dovuta passare alla seconda fase della riforma tributaria, cioè quella voluta da Vanoni, e cioè utilizzare lo strumento fiscale per distribuire con maggiore equità la nuova grande ricchezza accumulata dagli italiani. Già l'economia ci aveva pensato, lo sviluppo, perché la forbice tra ricchi e poveri si restrinse negli anni 50 e 60, ma se fosse stata attuata prima la riforma tributaria degli anni 70, gli effetti sarebbero stati ancora meglio. Invece purtroppo la riforma tributaria arrivò tra il 71 e il 73 alla vigilia dello shock petrolifero, e naturalmente la cosa, quando la ricchezza incominciò a diminuire, l'inflazione a due cifre, e quindi divenne tutto più difficile, mentre invece negli anni 60 la lira italiana aveva acquistato il Nobel della stabilità. E a proposito del 1971, professor Marongio, la vogliamo salutare con una nota comica di allegria, facendole riascoltare un brano, un pezzo, uno stralcio di un famoso film che racconta del contrastato rapporto tra gli italiani e il fisco, che è "Scusi, ma lei le paga le tasse?" con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Lei la sera del 16 aprile si trovava in un night club dove ha speso la bella somma di 108.000 lire per champagne e donnette allegre. L'ha riconosciuta tutto il personale, sa? E come può una persona che spende lire 108.000 in una sola serata, cosa che lei fa molto spesso come a noi risulta, denunciare un introito mensile di 108.500? Oh, basta! Basta! Sì, è vero! È vero, confesso! Sono un evasore fiscale! Bieco? Sì, un bieco evasore fiscale! Signor Ballarin, firmi la confessione e nel rogo della pecunia avrà purificato... Bene, professor Marongiu, la salutiamo, la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera a rievocare la figura. Io che ringrazio lei. Grazie a Luca Cremonese in redazione, ad Alessandro Chiappini in regia, a sabato prossimo.